con tutta la fasciatura si soffre? Non so, però ancora fino a martedì, per martedì mi hanno detto che vediamo se mi hanno consenso di rientrare o se devo continuare, capito? Ok, ho capito. Ehi, allunga ancora, cosa dici? Allunga, tu lamentati, fai finta di lamentare, anche se stai bene, magari martedì ti lamenti e così ce l'allunga, già pagare l'infortunio. Infatti, non ho mai fatto, ma per dormire, perché insomma, quando chiedi qualcosa tu, non ti hai di nulla, allora mi sa che bisogna fare qualcosa, capito? Appunto, perciò è proprio così, dopo una vita di sacrificio, o almeno un minimo di riposo ci vuole, caspitina. Allunga, pregatene, già pagare l'italiano, non ti preoccupare, se ne mangiano tanti soldi, figurati se gli operai non hanno diritto a un minimo di cosa. Non c'è quel problema che ti fanno la visita, magari sei idoneo. Io ti capisco, sì. Certo, stare a casa è come stare in prigione, si può dire, quasi, per una persona che è abituata a uscire tutti i giorni, andare al lavoro, a fare sempre la solita vita, e venirsi così sacrificato e chiuso in casa, l'imputo in bianco non è certamente piacevole, lo so. Tu lamentati quando ti è idoneo, ma che è idoneo, mi fa male, cosa, così lamentati e vedrai che ti allungano ancora un po' di giorni. Ma sicuramente poi se ne perdono anche loro giù, se ne perdono anche loro perché non lo posso sollevare molto, capito? Non posso sollevare per niente, non posso piegare il braccio ma sollevare no, quindi se ne accorgeranno loro stessi che non è una balla, capito? Sto usando quello piccolo, come sta andando bene? Che da tanto che non lo accendo. Sì, sta andando bene, sì. Certo. Si sente un leggero rumore in fondo, però è una cosa, adesso non so se è la propagazione o cosa è, però va bene, si sente una cosa così, ma non dà nessun fastidio comunque. È un leggero di fondo. Sì, se stai usando il switching è proprio quella, sì, infatti è lo stesso rumore della ventola quando si mette in funzione, è quello, sì, ma niente di particolare, va benissimo, non ci sono problemi, io ti ascolto benissimo, Santiago è alto, è 9:20, dunque la radio è ottima, niente di particolare, insomma, ecco. È abbassato pochissimo, proprio poco, niente di particolare. Sì, vabbè, da come sono 80 watt, sono passato a 50, quindi. E appunto, allora è quello il motivo, 30 watt non è che poi si nota molto la differenza, con 30 watt di differenza. Sì, no, ma va bene, va benissimo, altro che... Bene. Praticamente stai usando io che cosa? Il garage, cos'è? Qui a Priccio è? No, questo è 140. Questo è 140. A 140? Sì, adesso me ne sono reso conto dal colpo della portante. Quando schiacci fa... proprio un colpo, sembra un colpo di martello. diciamo che di solito quel rumore te lo riscontro anche quando usi il baracchino, no? Perché hai una potenza di spunto micidiale quando attacchi, tac, proprio di lusso, va benissimo comunque qua. Oggi è una giornata caldissima, oggi non si può stare fuori, c'è un caldo micidiale. A casa già si sta bene, perché a casa hai tutte le comodità che uno desidera, però quando esci fuori c'è da sciogliersi. Sì, fuori c'è un po' di calorici, c'è un po' di caldo, ci vediamo. Adesso in questi giorni così è bello uscire la sera al fresco, andare a passeggiare proprio verso il mare quando c'è fresco, ma durante la giornata è micidiale, sembra che sia arrivato il caldo a tutti gli effetti, è veramente iniziata l'estate a quanto sembra. Soprattutto quando c'è molta umidità, per carità, io mi sono uscito appena da sotto la doccia, sono già mezzo sudato, non si fa in tempo a rinfrescarsi che subito ti viene subito le vampate di calore, ma vabbè, lo sopportiamo perché giustamente il tempo è così, non lo possiamo cambiare, anzi, quando il tempo è bello e basta, ci piace. Però diciamo che ci adattiamo, ecco. Oh, yeah. Stasera non si sente nessuno, quanto sembra. Vabbè, io ho un po' di tempo che non accendevo l'apparecchio qua, anche perché ero impegnato col lavoro, soprattutto a casa, ho fatto dei lavori a casa, tanto è vero, ho fatto tutta la settimana fretta, la settimana scorsa, da giovedì alla settimana scorsa, e ancora non sono rientrato in bottega, perché ho lavorato tutta la settimana a casa. Vabbè, perché mi sono fatto muovere l'uomo, insomma, ho fatto delle modifiche, tante cose, insomma, ecco. Infatti mia moglie ha già detto, ma guarda che me lo paghi tutto il travaglio, e tu quando che me lo paghi questo lavoro? Infatti già stai fresco. Aspetta, ho fatto cliente buona, non me ne paga mai, no? C'è la libera, tutti i giorni no. Vabbè, no, anch'io sono così, ogni tanto una modifica, ogni tanto una cosa nuova, e vabbè, e tiriamo a campare. Vabbè, tra un po' scendo giù, non ho già anche un gelato, così era manco in grasso. Il dottore mi ha dato delle pastiglie da prendere la notte, ma io non le prendo, però diciamo che tutte le mattine, la mattina quando mi alzo sono sempre a mal di schiena, sempre, sempre. Però dopo un'oretta, un'ora e mezzo, e così come metto in movimento con la vola eccetera, forse perché scaldo la muscolatura, non lo so, allora mi passa, però appena mi sveglio, insomma mi fa anche zoppicare perché mi tira il nervo che mi prende, tutta la cuscia sinistra sino a sotto il ginocchio, così, mi tira, è come se avessi un nervo corto, vedo che lo allungo oltre misura, capito? Una cosa del genere, è da fastidio, molto fastidio la mattina appena mi sveglio, è così. Cosa dice il proverbio? Chi ha i dolori se li tiene, purtroppo è così. A proposito di Gio Maria, non sai niente se si è ripreso, non sai niente, io da quel giorno non l'ho più sentito poi. Gio Maria a casa ha fatto male il diritto, che a casa lì ha fatto anche un passaggio a baracchino, giusto per salutare, ha messo una vettura pontone giganti, faccio una telefonata a casa, dal telefono di casa stesso, qua, base con base, insomma, anche perché nel cellulare ho poco credito e non vorrei che si interrompesse la telefonata che le faccio, dopo le telefono per salutarlo e sentire un po' come va la situazione, tutto lì. E vabbè, anche lui purtroppo ha avuto quello che ha avuto e non è stata una cosa tanto piacevole, ma finché va bene la cosa va, non è un problema, ci riprendiamo, abbiamo le spalle molto larghe noi, dunque ci riprendiamo sempre. Sopportare i dolori e i pagamenti di tutti i momenti o di tutti i giorni, tiriamo a campare sempre, va, siamo esami, freghiamoci. Sacrificarci almeno per la prima casa, per la prima casa, per le altre cose va bene, ma per la prima casa io sinceramente non la vedo giusta la storia del limo eccetera. Capisco che l'Italia è messa male, tutto quello che vuoi, però Poi io dopo come è andato a letto popolare a domandare la casa, dico, faccio questo discorso perché magari quello che almeno a casa o che ha la casa comunale non ne paga di né di IMU né di niente, me la paga sempre l'ente. Ma vabbè, non è che sono geloso, ma in ogni modo questo è un dato di fatto. Io lo stesso, ho fatto un'operazione, lo sai, e non è giusto, capito? Non è giusto, perché io l'ho fatto per mia comunità, per le cose più grandi, eccetera, e non te la devi rilasciare, e vabbè, pazienza. E poi è bello che mi hanno calcolato anche i garage, quindi ho preso una bella batosta, adesso la seconda la prenderò a fine anno, diciamo, dai. Purtroppo sì, sì, per il saldo, eccetera, e vabbè, comunque, non ci lamentiamo, ma quello che è importante è il fatto che sta mancando il lavoro, o meglio è mancato il lavoro, eccetera, vabbè, a me non me ne frega più di tanto, ormai sono in pensione, tutto quello che faccio è in più, anzi, sto addirittura decidendo di cancellarmi direttamente, così mi aumentano anche la pensione, oltretutto, perlomeno così mi hanno detto, che quando ho chiuso mi cancello, mi hanno detto che mi aumentano anche la pensione, non sarà molto, ma di qualcosa dovrei usufruire, non lo so, comunque mi informerò bene e poi vedremo, anche se sinceramente a casa non è che ci sto, non è giocata, è già a casa, no, assolutamente. Non è la mia vita quella, ecco, a casa ci devo stare delle ore che ci sono sempre stato, non durante il giorno, eccetera, eccetera. Tu mi dirai, ma anche se si è in pensione puoi uscire lo stesso, sì, però è sempre una noia, io sono abituato a lavorare, finché la salute mi sostiene voglio lavorare, perché la mia vita è quella e per me la bottega per me è la vita anche, capito, Ocla? Faccio quello che posso fare, non è che mi sacrifico più di tanto, no, caspita, sei stupido allora, assolutamente no. Ehi, già ho dato, caspita, ci ho dato, tu pensi che ho iniziato a lavorare che avevo 11 anni, avevo, ne ho 70, compiuti, sono già 59 anni che sto sempre lavorando, pensa che andavo a scuola e a lavoro, nonostante tutto mi sono diplomato, eccetera, eccetera, e poi ho continuato a lavorare perché è stato un obbligo, in quanto essendo il primogenito di una famiglia numerosa, mio padre che tra l'altro era invalido, ci vedeva poco niente, allora io ho dovuto contribuire alla grande in famiglia, anche se lui aveva la pensione, eccetera, tutto quello che volevi, e io addirittura prendevo gli assegni familiari per i miei fratelli più piccoli di me. Sì, che ti puoi immaginare, penso di aver sacrificato abbastanza. Sono 59 anni e ripeto che sono sempre lavorando, sempre, ininterrottamente. Non devo fare niente, ma no, non è una questione di egoismo, che è un'abitudine di vita più che altro. Quando io sono a casa non so stare fermo, sto sempre inventandomi qualcosa in tutti i modi, o sistemando, o facendo, o toccando, o imbianchendo, o facendo anche rubi elettronica, insomma me l'invento il lavoro, poco a poco, non ci so stare, è più forte di me, capito? E quello è il discorso di tutti, caro Giulio, quello è il discorso di tutti, una volta che tu sei abituato, curiosissima, forse perché l'altra volta ho tolto il tappo attorno alla soffiatina, così con la fare asciugare a capelli, ho messo a freddo, no? Ero proprio per pulirlo nei minimi particolari, avevo passato il pennellino, ho passato e con la asciugare a capelli ho mandato aria e ho visto che gli è uscita la polvere da dentro, ho rimesso il tappo, mi sembra più silenzioso, perlomeno forse sarà la mia sensazione, ma ho visto che è abbastanza silenzioso. Anch'io ho il switching da 25 ampere e dato Telecom, c'è un marchio al centro con un bollino rosso e c'è scritto Telecom, sì, 25 ampere, due strumenti, lo stesso, no? Voltometro e amperometro, e dunque va bene così, ma l'ho aperto una volta per pulirlo e niente di più, lo lascio sempre a 13,8 di tensione e via, mi si è riattaccato adesso, e adesso comincia a scaldare. Anche io ho quello di simile. Si sente poco e poi piano piano aumenta la velocità di cambiamento, ma non cade niente. Capito? Infatti lo uso poco il bagaglio, lo uso sempre in 4,40. Però ogni tanto bisogna fare andare anche questo. Beh, certamente, sì, in effetti sì. Anch'io. Bisogna che mi porti giù un giorno dalla Mazzarda o il 25B dalla cosa, come si chiama? Ma accidenti che non mi viene. Con la popolare, il 25B, che sono qualche annetto senza accenderlo, magari si saranno seccati anche i condensatori, ma al limite lo cambio il condensatore elettrolitico di alimentazione, poi me ne accorgo subito, no, ma poi a ogni modo già lo alimentiamo a bassa tensione, così si rigenera il condensatore, dunque non è un problema. Perché c'ho dentro una scatola, ce ne sono altri apparecchi, c'è un Polmar, c'è un altro Tokai, c'è una Fayette, ne ho diversi, oltre a questi che ho qui davanti, che poi tutto sommato uso sempre questo, quasi sempre il Galaxy, se non ho niente di più, gli altri li uso di tanto in tanto così, ma solo per accenderli e farli scaldare appena, se no non è che li uso in maniera, diciamo così, continua, capito? Ma è qua. Tu lei è anch'io, sono fatto usando il Zodiac base per 23 canali, 8 anni più te, dove ho contato per far andare un po' questo, giusto per, capito, giusto per far andare. Che lo sto usando tutte le varie, a volte come toccando, capito? E quindi lo finisci, se no se io vorrei stare a dire no, attacca, antenne, cambia, qui e là, capito? Però ogni tanto bisogna farle andare, quindi le facciamo andare. Infatti, le facciamo andare perché tanto per renderli sempre pronti e funzionanti, perché non si sa mai, ma lasciandoli sempre fermi si possono anche non danneggiare, ma comunque diciamo possono avere un calo di prestazione, tipo che sono i potenziometri che si impolverano, che non li giri mai e dunque quando li giri magari raschiano, allora in quel caso lì bisogna pulirli con la specie di coso spray, insomma è meglio farli funzionare, almeno sei sicuro che quando li prendi sono sempre pronti e ottimi all'uso, già lo credo. No, ma non so, è una scocciatura stare a cambiare antenna, sai, come specialmente io addirittura ce l'ho, penso che ho un tavolino vicino al comodino, me sono messo lì e ne ho 1, 2, 3, 4, 5 davanti in questo tavolino e sono tutti collegati, devo solo cambiare l'antenna e basta, ma è una scocciatura, devo spostare il tavolino, staccare l'antenna, attaccare l'altro, insomma è un po' un macello. Allora uso quasi sempre questo e ciccia, non se ne parla più. Infatti, alla fine, anche io sempre questi qua. Gustavo Volbreco, mi sembra che sei vicino di casa. Sì, no, stamattina no, stamattina era a casa, no, sono la settimana scorsa stato andare in bottega. Ci sono andato ieri solo per prendermi uno degli attrezzi che mi servivano qui a casa. Da giovedì scorso, ho chiuso e mi sono dedicato a dei lavori a casa, qui compreso sabato e domenica, sicché deve appena passati, no, è anche stamattina, stamattina era tutta la fase finale, sistemazione eccetera, perché i lavori erano stati eseguiti e basta, tutto lì. Avanti Maurizio, mi sembra. Buonasera a tutti. Allora, tutto bene? E ciao Mauri, tutto bene, sì. E appunto, stavo spiegando a Claudio che era un po' di tempo senza accendere, adesso stasera avevo un po' di tempo, adesso l'ho appena uscito la luce, sto già quasi sudando. Avanti Clap e Maurizio. Io, ciao Mauro, buonasera, mi sentite? Sono un po' assente. Vabbè, siamo tutti in queste giornate, caldo, freddo, ti piace uscire, fare. In epoca vegana, però se c'è da andare bisogna andare, almeno con la famiglia, contenta la famiglia, avanti Mauro. Veramente non c'ero quasi tutta la settimana, perché eravamo mangiando, cenando a Casalicca, abito in fine questa settimana, e poi mi stavo rendendo la notte e nulla, niente. Mi sono passato un attimino adesso, perché anche io avevo mangiato lì, volevo prendere roba da casa, adesso me ne tornano via, e anche stanotte siamo lì e domani a Tintino, e quindi secondo me va, si riprende l'altra settimana. Sono spariti, un po' il gomito, mi fa male, ma quello è normale. anche per quello che non fa la fisioterapia, non è che una volta una facciatura e tutto quanto rientri subito, devi fare il ciclo di terapia, di fisioterapia prima di rientrare, quindi minimo ci passano un paio di mesi, hanno tutti bene. Se mi tolgono tutto va bene, se mi lasciano, se mi volevo ancora tenere, prendo un'altra via. E non ti vede entrare in fortuna? Sì, che non ti vedono nel posto, e che fanno la fisioterapia, di riabilitazione, non ti fanno rientrare in fortuna, loro la responsabilità non se ne prendono. E allora se ti capita qualche cosa ci passano loro, capito? E quindi una volta, finché non ce l'hai a posto, è sistemata la spalla, è bloccata, è calcificato tutto, una volta che c'è a posto quello ti fanno fare la fisioterapia. Non è che ti tolgono la gessatura e ti mandano subito al lavoro, ti fanno il ciclo di fisioterapia. Non so, non è mai fatto, no, per la prima volta, non so neanche come funziona, perciò lo vediamo, ti ripeto, 19 ore 4 mesi c'è la vita ricca. E poi mi diranno loro che cosa devo fare, cosa vi dico. Io sono cinuglio, se la spalla c'è una volta che ti metti giù, lei è a posto, è bloccata, e cioè ti c'è tutto sistemato rosso nella spalla, dopodiché ti fanno fare la fisioterapia per riabilitarti, con la funzione di rimuovere il braccio. Non è che dopo che quelli a posto ti vanno a lavorare, no? Ti fanno fare il ciclo di fisioterapia. Dopo che fai il ciclo di fisioterapia ti controllano, se tutto a posto ti vanno a lavoro. Se non è a posto ti fanno continuare la fisioterapia. Non ci funziona, non so, no beh. L'importante mi tolgono quel processo di cose, hai capito? Ti voglio entrare sui morenti. Quindi si vedrà, va bene, avanti giù. Infatti io ho già detto a Claudio che cioè, quando sarà guarito non stabilisce, lui deve stabilire lui, cioè il malato, perché uno a un certo momento il medico ti guarda, ti vede, ti tocca e sei guarito, alla volte lo fanno anche per far risparmiare l'azienda sanitaria, mentre invece dice oh, mi fa male ancora a me, mi fa male, guardi io ho bisogno ancora di alcuni giorni perché mi fa male, così via, tira a campare, perché ecco, scusa la tosse, stavo dicendo, funziona così, Clara, le fortune così, loro magari, secondo il medico che trovi, che ti controlla, quello lì ha tutto l'interesse di mandarti al lavoro, capito? Così dice, no, che bisogna mandare al lavoro perché lui fa il furbo, invece no, tu mi fa male sempre, finché non sei perfettamente a posto, tu devi sempre accusare, ti fa male, basta, tutto lì, e vedrai che i giorni ti allunga, altro che se te li allunga, se devi fare in ferie non è meglio, senza la fasciatura naturalmente, perché la fasciatura magari può essere che te ne facciano una più leggera, chi lo sa, o può essere che ti diano qualcosa da appendere il braccio così con una fascia al collo, non lo so, però i giorni se ci vogliono ci vogliono e basta. Ah, ma lì lo sai, siccome loro vogliono la prima degli alloccate, dopo li fanno fare l'altra razza e li controllano se la spalla è a posto o non è a posto. Se vedono che la spalla è calcificata, dopo le vanno a fare fisioterapia, non c'è niente che gli fa male o non gli fa male. Loro in base alla prima razza che ha fatto come ce l'avevano fratturato, alla seconda come gli è riuscita la spalla, gli fanno fare la seconda razza e dalla seconda razza li guardano la prima e la seconda fanno il confronto. Se la spalla è a posto, se l'è messa a posto, si è calcificata, dopo gli fanno fare la fisioterapia per riabilitarsi, per muovere bene il braccio attorno. Sì, appunto, però può esserci il dolore, uno si ha il dolore non può certamente rientrare al lavoro, questo, se no tu mi fai rientrare, vabbè, io tu mi fai rientrare, adesso vado dal mio dottore e mi faccio dare un po' di cura da lui, e lui mi manda la lettera, le manda all'azienda, e tu te li fai altri giorni in malattia, e il discorso funziona così, bisogna, uno se sta male, sta male, non è un puoi obbligare una persona se sta male ad andare a riprendere il lavoro, ma vuoi scherzare, nella maniera più assoluta. Tu, Claudio, devi essere forte in questo caso qua, nel senso che devi comandare tu fin quando non sei guarito veramente, a te ti vuoi male e basta, poi se te vuoi prendere qualche altro giorno in più, tanto meglio, che aspettina, cos'è? perché sei tu che hai il dolore, non sono loro. Dice, ma a me mi fa male, guarda, a me mi fa male, vabbè, mi fate rientrare. E io vado al lavoro e poi vado al mio dottore e mi date 2, 3 giorni, 4 giorni di malattia. È semplice, no, il sistema. Avanti qua. Sì, non fai, ma non voglio dire come vuole anche sapere. Non gli ho detto che finivo il 22, ma poi finisce il 22 e lo riprendi poi dal 22. Quello decido io quando devo rientrare, non decido ma loro, quello me l'ha già detto, e poi immagino il dottor Gervasi, da riconosce tutti con la mandria che ci sono due lì, non c'è problema. Detto quello lo decido io quando devo rientrare. Tu vai a visita, senti cosa ti dico, tu vieni qua, portami la carta che dicono loro, che tu ci hai contato io loro per me. Infatti una volta che ti fanno una fasciatura, a parte dopo ti fanno un'altra per vedere se è tutto a posto. Infatti quello è l'ortopedico che ti fa la prima la visita di controllo. Se l'ortopedico ti guarda e ti fa l'altra e dice che è a posto, allora ti fa il foglio per fare la fisioterapia. Vai all'infortunio e ti fanno fare il ciclo di fisioterapia, capito? E vai dove devi andare. Non andare a pagamento, se cose ci sono, le cose dove c'è il ticket, vai così col ticket e ti fa la fisioterapia. Se una volta finito il ciclo di fisioterapia, se non lo pubblico ti controlla, ti dice la poco, rientri. Se no rientri. No, io non devo pagare niente, è infortunio, ma non c'è infortunio, non pagare la tua azienda, anche la fisioterapia. Non gli vuole nulla, io non direi che mi serve loro per pagare la fisioterapia. Anche io vengo a pallone, mi devo guardare male, se ho fatto male al lavoro io, quindi ne rispondono loro, non c'è problema, è avanti Giulio. Certamente, io non credo, non rispondono loro, non è, oltre al danno poi anche la beffa che devi pagare, no, assolutamente no. No, appunto è così che funziona, perché non so, la gente, io ho lavorato in un stabilimento dove la gente ogni tanto si fortunava, sai, con le macchine, eccetera, e poi ho visto gente che è guarita e lavorava anche di nascosto, però diceva che si sentiva male e risultava sempre in malattia. Perché tu mi dai, ma non è una cosa non seria da fare, sì, ma d'accordo, lo sarà serio, però se permetti, quando sono guarito lo decido io, quando sono veramente guarito lo decido io, ma lo devo andare anche io, non ce l'hai tu e nel medico e né nessun altro, dunque io accuso sempre loro e ciccia anche se poi le lastre eccetera, però una delle lastre, ma il dolore c'è, quando ti sono nell'abbraccio, oi, e così via, e funziona così qua, capito Mauro? Io già lo so, già l'ho fatto una volta, per fortuna, perché non tutti dicono che non vuoi essere rientrato. Vabbè, ascoltate, io vi lascio, vi devo andare, ci sentiamo alla prossima settimana, dai. Buon proseguimento e ci sentiamo alle prossime, ciao a tutti, ciao Clavietto, ciao Giulio, ci vediamo la prossima settimana, ci sentiamo la prossima settimana, ciao. Ciao Mauro, salutoni, a risentirci, avanti qua. Ciao Vale, saluto a tutti, buona fede, allora ci ascoltiamo la prossima settimana, alle prossime, ciao ciao. E ciao a tutti, ciao ciao. Ciao ancora Mauro, ciao. E così è qua, gli auguri, non è, funziona così, l'infortunio è quello. Cazzo, ma se ne mangiano tanti i soldi questa gente, io non posso prendere un giorno di più per essere sicuro di stare veramente bene, ma puoi scherzare, ma non esiste se no, che cazzo, se no è da fessi, è da stupidi lasciarsi fregare in quel modo lì. Vai qua. Ma infatti, no, ogni tanto ci trovano, mi telefonano. Beh, quando rientra sta bene qui, là, e poi sto bene, non sto bene, sono tutta dolore, ho un ematoma qui e là, quindi siamo già, bene, rimetterci presto, così può rientrare, tutto preso, dice che siamo una perdita lunga, genda da me, in più devi anche dare spiegazioni, capito? Ci provano, lo sai così, e beh certo, lo sappiamo, loro ci provano, e se vedi con questo qui come sta andando, eccetera, eccetera, adesso lo faccio rientrare, sai, invece no, un momentino, che che io rientro quando mi sento bene veramente, perché io qua sono venuto in perfetta efficienza fisica e in perfetta efficienza fisica devo rientrare, no? O col dolore ancora che mi devo sopportare per qualche giorno o lavorando, ma puoi scherzare? No, no, non esiste, nella maniera più assoluta. Vabbè, dai, quello che mi stacco un po' dalla radio, guardo un attimo, se coincide ci sentiamo ok? Ok, qua, dopo eventualmente, dai, e adesso scendo giù io al mio salone, va. Ciao qua, ci sentiamo, grazie per il consiglio, ciao. Grazie a te per il tuo chat, ci sentiamo dopo, ciao. Ciao.